Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana. Buona giornata a tutti. Allora, soprattutto gli affezionati che ci seguono costantemente lo sanno bene, se almeno una volta al mese non parliamo di RC Auto non siamo contenti. Sentite questa: abbiamo in mano l'80% del mercato delle RC Auto, ma non riusciamo a confrontarci con i nostri mandanti, cioè le compagnie di assicurazione, sui problemi che riguardano i nostri clienti. Così abbiamo deciso di rendere pubblica la situazione. Chi ha detto questo? Questo è il messaggio al centro della dura polemica scatenata da qualche tempo e ieri entrata decisamente nel vivo da parte dello SNA, il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, con una iniziativa che si è svolta a Roma appunto ieri, denominata Giù le mani dai consumatori. Gli agenti delle assicurazioni appunto riuniti in questo sindacato sono tornati a denunciare gli aumenti delle tariffe auto e gli effetti che ricadono sugli agenti, costretti a misurarsi, dicono loro, con un mercato iniquo e ingessato. Pensate che hanno presentato anche una petizione popolare, mirano naturalmente a raccogliere migliaia di firme, poi mandarla alle forze politiche per fare in modo che si sollecitino così a raccogliere la loro protesta, anche se da quello che ho letto c'è già qualche parlamentare interessato alle loro indicazioni. E però insomma questa iniziativa ci ha incuriosito. Questa sollevazione popolare degli agenti di assicurazioni contro le assicurazioni, in sostanza proprio per tutelare i consumatori. Ci ha incuriosito questa protesta, stamattina ne vogliamo sapere qualcosa di più e ne parleremo con il presidente nazionale dello SNA, Giovanni Metti. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E poi, siccome l'iniziativa di ieri di Roma ha coinvolto anche molte associazioni dei consumatori, ne abbiamo interpellata una questa mattina, un amico di Salva Danaio, Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum e referente per questa associazione dei consumatori per le problematiche legate al settore assicurativo. Premuti, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. E poi naturalmente non potevamo anche non coinvolgere l'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, Vittorio Verdone, direttore auto, distribuzione e consumatori per l'appunto dell'ANIA. Dottor Verdone, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. E naturalmente microfoni aperti agli ascoltatori all'800 24 00 24, oppure se non volete chiamarci ci potete scrivere al 349 238 6666. È un tema che sensibilizza molto i consumatori, questo non solo per l'aspetto dei costi che continuano a lievitare, tema sul quale siamo andati tante volte, come ricordavo all'inizio, perché anche a causa della crisi, ma non solo, i conti economici delle compagnie non ne tornano più, pertanto ci hanno spiegato più volte, siamo costretti ad intervenire sulle tariffe, ma qua ci stanno anche altre questioni che stanno scatenando appunto la polemica degli agenti, non ultima quella della quale ci siamo occupati diffusamente anche in una puntata ad inizio novembre, e cioè il fatto che le compagnie stanno abbandonando il Sud Italia, disdettano in molte zone, chiudono gli uffici e non accettano di assicurare, nonostante l'obbligo a contrarre che è imposto dall'Unione Europea. Tutto questo lo esamineremo tra poco, i numeri per intervenire ve li ho ricordati, solo qualche secondo per andare a vedere cosa sta facendo la borsa in questo momento, in attesa del dato sulla disoccupazione americana. Oggi borse abbastanza tranquille, un paio moderatamente positive, un paio leggermente negative, queste sono Francoforte e Londra, mentre Parigi segna un più 0,4%, Milano più 0,12%, l'euro sul dollaro a 1,32,54, le agenzie di rating stamattina stanno intervenendo molto, oggi hanno messo di nuovo Standard & Poor's sotto Credit Watch negativo il debito greco, e poi poco fa c'è stato anche un intervento sul Portogallo, e comunque insomma cose che si sanno ormai, le agenzie di rating un po' sotto osservazione anche per questi interventi che insomma qualche volta vengono ritenuti un po' tardivi. In ogni caso oggi, almeno rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, le borse sono un po' più tranquille, e le borse le lasciamo adesso per andare invece al settore RC Auto, che stamattina affrontiamo di nuovo raccontandovi di questa forte protesta degli agenti di assicurazione. Se ne continua a discutere mese dopo mese, eppure quella dell'RC Auto sembra una matassa sempre più difficile da districare, con le tariffe che intanto continuano a crescere. Un aumento continuo che ha portato le polizze, dal 1994 ad oggi, a lievitare del 174%. Ad alzare la voce per cercare di invertire la tendenza, questa volta è stato lo SNA, il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, che al grido «giù le mani dai consumatori» ha puntato il dito contro l'aumento spropositato dei prezzi e l'abbandono in massa di alcuni territori, soprattutto nel meridione, da parte delle compagnie, lo scarso contrasto al fenomeno delle frodi e delle speculazioni e i pochi incentivi alla concorrenza in questo mercato. Gli agenti si dicono insoddisfatti del dialogo con le associazioni delle imprese e si rivolgono quindi all'opinione pubblica, lanciando una petizione popolare da presentare al presidente della Camera che mira a raccogliere 500.000 firme. Tra le richieste spicca quella di favorire una reale liberalizzazione del mercato, applicando la legge che permette agli agenti il plurimandato, la possibilità di scegliere i prodotti da presentare al cliente senza sentirsi vincolati all'una o all'altra compagnia. Tra le altre proposte, l'istituzione di un tavolo con ISVAP, ANIA, magistratura e polizia per affrontare l'altra macchia tutta italiana in materia, quella delle frodi e delle speculazioni, altra causa, riconosciuta da tutti, dell'elevata crescita di questa voce di spesa, oltretutto obbligatoria, che pesa sulle famiglie italiane oltre il doppio rispetto al resto d'Europa. 800 24 00 24, numero verde per le domande degli ascoltatori. Peraltro il mese di dicembre per molte famiglie arriva proprio anche la rata magari semestrale da pagare, quindi magari proprio per questo stamattina avremo un maggior ascolto da parte dei nostri amici che ci seguono da casa. Giovanni Metti, comincio subito con lei, la ripresento di nuovo, il presidente nazionale dello SNA, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. In quanti siete? In tanti? Quanti agenti vengono rappresentati in questo sindacato? Circa 8.500 agenti. Quindi insomma una bella... Su tutto il territorio nazionale. Allora, noi abbiamo un po' riassunto nella nostra scheda le motivazioni che vi hanno portato a rafforzare la vostra protesta, che per la verità era già nota da qualche tempo, e ieri avete voluto incontrarvi insomma a Roma con questa iniziativa denominata Giù le mani dai consumatori. Ma ribadendo un po' così i termini di questa contestazione molto forte che muovete nei confronti dell'associazione che teoricamente poi vi rappresenta, perché presidente, questo è veramente un aspetto inedito, gli agenti che ce l'hanno contro i loro stessi mandanti. Diciamo, no, che non è proprio che noi ce l'abbiamo contro le nostre mandanti. Noi vogliamo chiarire definitivamente qual è il ruolo degli agenti di assicurazione in un mercato in cui si fa un po' di confusione. Quindi noi siamo dei lavoratori autonomi iscritti a un registro degli intermediari, che abbiamo un mandato d'agenzia per rappresentare una o più compagnie di assicurazione. Quindi noi vogliamo che sia ben distinto il ruolo fra le compagnie di assicurazione, che hanno la responsabilità del formare le tariffe e del formare i prodotti, rispetto agli agenti che sono invece i rappresentanti, diciamo, commerciali sulla zona delle compagnie di assicurazione. Noi abbiamo tutto l'interesse ad essere capaci di svolgere il nostro ruolo in modo molto professionale, e in particolare vogliamo che ci sia però una dichiarazione di responsabilità che sia ben diversa fra coloro che sono gli agenti di assicurazione e le compagnie. Siccome si sta parlando in questo periodo di problemi che riguardano il caro polizze, noi vogliamo semplicemente dire che abbiamo prima di tutto le nostre idee per quello che bisogna fare per intervenire secondo noi per fare in modo che le polizze abbiano un costo diverso. E quindi noi non condividiamo le analisi, perlomeno non condividiamo in tutto le analisi che viene fatte da parte delle associazioni delle imprese nel giustificare questi tipi di aumenti. E per questo, siccome non siamo in grado, siamo stati in grado di avere un rapporto che ci permette di colloquiare con l'associazione delle imprese al fine di trovare delle soluzioni a questi tipi di problemi, abbiamo deciso di rendere nota la nostra posizione all'opinione pubblica, perché su questo si apra un dibattito e si aprono delle riflessioni che coinvolgono per la verità non solto l'associazione delle imprese, ma devono coinvolgere anche i consumatori, il governo, i partiti politici, perché si deve arrivare a trovare una soluzione che permetta al cittadino italiano che è obbligato a fare una polizza di assicurazione per quanto si riferisce all'RC auto e che non si trovi però disgraziatamente un bravo cittadino, un cittadino onesto in una zona particolarmente difficile a dover pagare la stessa polizza 2, 3, 4 volte di più che in altre zone, dovendo semplicemente assolvere ad un obbligo. Questo non lo condividiamo, per noi è molto è una disuguaglianza che non tolleriamo, e quindi diciamo al mondo intero, con queste domande che chiediamo, se vorranno risponderci da parte dell'ANIA, dire che questa politica che viene fatta di abbandono del territorio, di a maggiori costi per certe zone, vuol dire maggiori anche immediatamente l'equazione che aumentano i costi per ragioni che possono anche essere le frodi e che condividiamo eccetera, però che si trasferisca tutto sul prezzo dell'assicurazione, secondo noi non è giusto, bisogna fare qualche cosa di più e certamente qualche cosa di meglio di quello che non è stato fatto sino adesso. È per questo che vogliamo che tutti quanti gli attori della società italiana partecipino a questo dibattito, perché c'è da risolvere il problema. Benissimo. Come non siamo stati ascoltati, l'abbiamo messo su un all'opinione pubblica, e all'opinione pubblica daremo delle risposte. So che si è scatenata una grande attenzione intorno alla vostra iniziativa. Voi avete formulato 5 domande precise all'ANIA, che in modalità varie ovviamente vi ha risposto, perché lo aveva fatto in maniera precedente. Adesso chiedete, credo, una posizione ufficiale. Noi, siccome Vittorio Verdone interviene spesso a Salvadanaio, questa mattina faremo una cosa, un blitz, glielo dico già prima di farglielo, gli rivolgerò io direttamente le 5 domande che lo SNA vuole fare all'organizzazione di categoria, e sentiremo appunto quali le risposte verranno formulate dall'associazione di imprese. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre osservazioni. Ci sono già degli ascoltatori pronti anche ad intervenire. Io adesso devo già andare nella prima pausa, intanto c'è Ferdinando da Bologna, un altro ascoltatore molto affezionato a Salvadanaio, che dice: cara Deborah, dopo tante proteste anche gli stessi agenti si ribellano alla esosità delle assicurazioni, finalmente. Insomma, sentiremo l'ANIA su questi punti, ma anche l'associazione dei consumatori, a tra poco. Salvadanaio oggi ritorna sul tema dell'RC auto, prendendo a spunto l'iniziativa che si è svolta ieri a Roma, Giù le mani dai consumatori, organizzata dallo SNA, il sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, che lamentano da un po' di tempo, e ieri sono arrivati appunto a questa iniziativa piuttosto forte, che peraltro il presidente del sindacato Giovanni Metti ci diceva ha suscitato veramente un grande interesse, un grande clamore, perché appunto, vi dicevo, denunciano la necessità di un dialogo un po' più forte con l'ANIA, l'associazione delle imprese di assicurazione, quindi i loro mandanti, su dei temi che cominciano ad essere un po' troppo importanti per i consumatori. Il primo di tutti naturalmente è l'aumento dell'RC auto, che è insostenibile, che soprattutto riguarda anche a questo punto tutti i consumatori, tutti gli automobilisti, anche quelli più virtuosi, che teoricamente dovrebbero beneficiare anche di un buon comportamento negli anni alla guida della propria auto. Ma ci sono tanti altri problemi: l'abbandono del territorio da parte di alcune compagnie, soprattutto il Sud Italia; sul tema delle frodi non si riesce ad intervenire, anche queste fanno continuare ad aumentare le polizze RC auto. Insomma, ci sono tanti argomenti. Allora, io, siccome lo SNA pone delle domande molto precise all'ANIA, io questa mattina allo SNA ho promesso che avrei fatto dialogare con loro l'ANIA. Vittorio Verdone, pronto alle domande dello SNA? Ma tanto le conosce, sì, molto bene. Me le segno perché non le conosco, ma le conosce lei. Allora, le faccio la prima domanda, vediamo un po': quali iniziative sono state prese nei confronti delle imprese che abbandonano il mercato assicurativo, in particolare nel meridione, creando grave danno ai consumatori e determinando una vera e propria emergenza sociale? Ma adesso lei mi fa tutta una serie di domande, però io devo intervenire su alcune considerazioni preliminari, perché sennò qui le cose non si capiscono. Interveniamo. A beneficio dei radioascoltatori. Teniamo distinte le problematiche delle reti distributive, e cioè della redditività delle reti. Questi sono i problemi che gli agenti stanno vivendo in questo momento, dalle problematiche dell'RC auto, altrimenti si fa un grande calderone e non si capisce più nulla. A cominciare dal fatto che, qui saluto Giovanni Metti, il Sindacato Nazionale Agenti, che è rappresentativo di professionisti dell'assicurazione, esce con delle dichiarazioni, secondo me prendendole di qua e di là, che non sarebbero, uno non si aspetterebbe che potessero provenire dagli agenti professionisti di assicurazione, come questa storia fantomatica degli aumenti del 174%, ovviamente l'hanno copiato da qualche comunicato stampa di altri, quando dovrebbero sapere che nel corso di tutto questo tempo gli incassi delle compagnie sono stati esattamente la metà, e questo significa che loro non hanno avuto un aumento delle provvigioni del 174%, lo sanno benissimo, perché non c'è stato questo aumento. Quindi anche quando si fanno dichiarazioni, mi rendo conto, anche in chiave politica, che vogliono essere forti, quantomeno si facciano bene i conti questo uno si aspetta dagli agenti professionisti di assicurazione. Perché la loro abbandono del territorio. Ecco. Nel 2009 gli agenti operanti al meridione sono aumentati, sono più di 5.000. Questo è un rapporto che l'ISVAP ha fatto e ha raccolto dati su tutte le compagnie sui mandati agenziali. Se poi dobbiamo parlare di problemi che ci sono nella riorganizzazione delle reti, vedete, il mondo della distribuzione sta cambiando, sta evolvendo. In Italia ci sono canali di distribuzione di vario tipo, gli agenti sicuramente sono il principale canale distributivo nei rami danni, anche se poi con varie commissioni, con i broker, quando trattano con gli agenti, non arrivano a quelle percentuali dell'80% che si diceva prima, ma nei rami danni arrivano al 50%, nelle RC auto circa il 70%, sono il principale canale, però non sono i soli, noi abbiamo una concorrenza di canali che ormai si sta affermando, probabilmente cambierà ancora nel corso del tempo, ci sono le vendite dirette, ci sono appunto i broker, ci sono le reti bancarie. Quindi questo è un problema di evoluzione del mondo della distribuzione. È chiaro che dall'evoluzione del mondo della distribuzione possono nascere problemi. Però è sempre un problema dei mandanti in ogni caso, dottor Verdone, non è un problema di qualcun altro. Io non riesco a capire come gli agenti non possano comprendere che, ma poi ci arrivo, perché evidentemente loro non sopportano il rischio dell'attività assicurativa, lo dicevate prima. Chi fa le tariffe, chi sopporta il rischio, chi effettua le prestazioni deve farlo in equilibrio economico, cioè non può vendere sotto costo in assicurazione perché il rischio, l'abbiamo detto più volte in questa trasmissione, è il fallimento. Allora, non comprendere che se ci sono delle situazioni in cui alcuni punti vendita evidentemente sono improduttivi oppure hanno dei rapporti eccessivi dal punto di vista della raccolta premi e degli oneri di sinistri che la compagnia deve pagare per quei premi raccolti, c'è un problema di razionalizzazione e quindi di riorganizzazione delle reti. Benissimo, ma su questi punti ci si sono può... tali per cui sopportano quantomeno il rischio della loro attività, cioè non possono, e i motivi diciamo di, non dico scontro, ma comunque di dialettica forte tra noi e loro, sono soprattutto sulla regolazione dei rapporti di agenzia, ma non sull'RC auto su cui... Le proposte che mi fa piacere che da ultimi arrivano anche gli agenti, che sono state fatte nel corso di questi anni da parte dell'ANIA, sono ormai anche condivise con le associazioni dei consumatori. Io ho qui un documento che abbiamo esaminato nel forum ANIA Consumatori in cui con i consumatori, e Fabrizio Permuti lo sa bene, adesso vado abbiamo da lui, già infatti. Condiviso 5 proposte di intervento, perché senza quelle il problema dell'RC auto non si risolve. Allora, mi scusi, non si risolve. Vado da Metti un attimo, sì, per farlo replicare naturalmente, ma anche allora per capire qual è la natura vera di questa contestazione. Avete preso gli aumenti dell'RC auto, poi mi dice magari dove ha preso, se è un calcolo vostro, una statistica vostra, l'aumento dal 94 ad oggi dell'RC auto del 174%, ma avete preso a spunto la dinamica sull'RC auto per richiamare maggiore attenzione nei vostri confronti, ma il problema della vostra contestazione in questo momento, della vostra conflittualità con l'ANI, è legata proprio alla questione della distribuzione delle reti? Cioè, è sicuramente legata alla questione della distribuzione delle reti. Comunque, possiamo metterci anche a discutere di quanto sia aumentato le polizze del 100, dell'80%. Che siano aumentate, i nostri ascoltatori ce lo raccontano. Andare a vedere qual è la fonte, avremo le fonti nostre, le fonti loro, che probabilmente non troveremo mai una soluzione al problema reale di quanto sono aumentate le polizze. Una cosa è certa, che in Italia costano di più di tutto il resto d'Europa. Io dico certamente una cosa, che le polizze di assicurazione negli ultimi 10 anni sono aumentate in un modo enorme, che noi non condividiamo il problema, che noi non condividiamo è questo. Il problema è che per quanto ci riferisce il costo delle polizze, non è giusto da un nostro punto di vista che siccome è innegabile che ci siano l'aumento dei costi dovuti alle riparazioni, a tutto un insieme di cose, ma soprattutto nelle aree dove questo fenomeno, dove risulta per le frodi che vengono fatte, noi denunciamo che per contrastare le frodi prima bisogna contrastarle, fare quello che si faceva una volta nelle compagnie di assicurazione, che avevano gli uffici sinistri sul territorio, che andavano a vedere le macchine danneggiate, che andavano a sentire i testimoni quali potevano essere attendibili. È un tema che è uscito anche nell'ultima puntata, più che scappare, rafforzare i presidi sul territorio. Il territorio, il non presidio da parte delle compagnie, perché è troppo facile dire io là non ho un ritorno utile e quindi me ne vado. Perché in questo modo, secondo il mio parere, si lascia ancora nelle mani della criminalità, degli contrassegni falsi, eccetera, tutto un territorio che va poi ad aggravare ulteriormente la situazione, perché diventa il caro polizze, vuol dire eludere a contrarre polizze da parte del cittadino, vuol dire che comunque se il cittadino ha degli incidenti, chi riceve l'incidente attraverso il fondo vittime della strada deve avere un risarcimento, e quindi si ha anche la beffa che non prendi il premio ma devi pagare il sinistro. Bisogna fare una politica diversa. Poi noi non, certamente non siamo coloro che deve andare a fare il premio di assicurazione, però cioè a determinare qual è il giusto premio di assicurazione. Certamente però diciamo che quello che è stato fatto sino adesso non è stato fatto nel modo giusto. Fermo lì, Fabrizio Premuti, ho bisogno di un supporto di un'associazione dei consumatori, perché io veramente a sentirli tutti e due mi viene da dare ragione ad entrambi. Allora, visto che voi avete firmato come dire tavoli e tante iniziative di conciliazione con l'ANIA, ieri eravate all'iniziativa dello SNA, mi deve aiutare a capire chi è che ha ragione in tutta questa contestazione. Di sicuro ha ragione il settore, appunto, delle imprese, l'associazione delle imprese, quando dice comunque stare su certi territori per noi a questo punto non è più assolutamente, adesso mi viene da dire, redditizio, ma è inutile, perché l'attività fraudolenta è talmente elevata che è impossibile da combattere, per cui l'unica nostra scelta, l'unica nostra possibilità è appunto chiudere gli uffici e lasciare andare le cose come stanno, che non è sicuramente, forse l'ho detto in maniera un po' troppo sintetica e banale, però insomma il concetto è questo. Gli assicuratori chiedono addirittura invece un potenziamento delle strutture di liquidazione su questi posti, proprio per verificare esattamente quello che succede, quindi colpire veramente il comportamento fraudolento dopo averlo chiaramente individuato. Chi ha ragione? Qui il rischio è che tra i due litiganti il terzo greba stavolta invece che essere felice. Il problema per me è riassumibile in una battuta quasi, che è quella che ho fatto, però poi se vogliamo dare delle motivazioni le diamo. Giovanni, e saluto sia Giovanni che Vittorio perché poi siamo nell'ambito di persone che si conoscono, Giovanni ha fatto un intervento che praticamente salta esattamente ciò che io ho detto nell'ultima puntata di Salvadanaio, in cui abbiamo dibattuto di RC Audio, quindi e da questo già si capisce qualcosa di quello che voglio dire dopo. Vittorio, l'aumento delle tariffe è esattamente quello che viene dichiarato, 174%, e lo ribadisco anche io, pur se non è una mia statistica, che poi i premi possano essere inferiori percentualmente, siamo d'accordo pure su questo, ma questo deriva dal fatto che in alcune zone si fa lo sconto alla tariffa, perché un conto è parlare di tariffa e un conto è parlare di premi. Ci sono delle zone però che questo aumento del 174% se lo sono preso tutto, fino all'ultimo punto percentuale. Ci sono persone, e se volete ne diamo conto anche con le testimonianze dirette, che solo quest'anno si vedono chiedere il 60, il 70%. Ce ne ho un po' pronti qua, ma non riesco a farli intervenire. Sì, Premuti. Ma questo per dire che io non è che poi racconto storie che sono inesistenti, racconto la verità del paese, e è un paese su cui viviamo. Il problema dell'RC Auto, prima di tutto, è un problema di carattere di cultura e di carattere sociale, e quindi come questo va inquadrato, e non soltanto dal punto di vista della redditività. Che poi ci sia un problema di redditività io questo neanche nego, e tra l'altro dico che chi fa un lavoro va pagato per il lavoro che fa, per cui è giusto che se le compagnie garantiscono un certo tipo di problema, su quel tipo di problema dovranno avere la loro redditività. Qual è adesso il vero problema dell'RC Auto? Che si sta tendendo in qualche maniera ad allontanare una parte del paese che non è più il sud del paese, perché questi problemi li hanno a Latina, li hanno a Frosinone, sì. Per cui io non parlo soltanto di Napoli, dove la frequenza sinistri è il 20 ed è fuori controllo. E perché poi sia fuori controllo, le motivazioni le ha dette Giovanni Metti, è inutile che le ripeta, perché se si abbandona il territorio, se non si controlla, se non si è presenti, è inutile, qualcun altro ci farà i propri guadagni, e i propri guadagni in questo caso li fa la criminalità e li fa anche il piccolo delinquentello da strada. Premuti, mi devo fermare perché ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi riprendiamo da questi temi. C'è un ascoltatore, Gianni, che scrive: io lavoro in un'officina e le frodi sono all'ordine del giorno, le assicurazioni non controllano a fondo mondo mai. E un altro ascoltatore, Edoardo, che ci dice: l'assicurazione è a Mestri, io sono residente a Treviso e pago 60 euro di più all'anno. Insomma, magari per tutti fosse una cifra così contenuta, c'è chi ci invece sta denunciando aumenti molto più consistenti. A tra pochissimo. Volevo sentire Alessandro dalla provincia di Torino, perché sennò oggi non riesco neanche a dar voce a nessun ascoltatore. Alessandro. Grazie. Grazie a lei, ci dica. Buongiorno, intanto volevo complimentarmi con Giovanni Metti, presidente dello SNA, e finalmente si parla del problema che hanno gli assicuratori, perché siamo in prima linea, ci siamo noi, e prendiamo botte dal cliente e botte dalle compagnie, dalle mandate. Mi racconta la botta che prende dalla compagnia, Alessandro? Sì, beh, le compagnie e poi i rapporti SP, ma con chi lavora, chi assume, cioè botte in questo senso. Fermo restando che oggi le provvigioni sono state dimezzate, che si avvicina alla natura di provvigioni che avevo io ho quasi 66 anni oramai. Io mi sono sentito dire una volta nella vostra trasmissione che ero un nostalgico, perché parlai che bisognerebbe ritornare al controllo da parte del Ministero, quindi prima del 94, che le cose andavano molto molto meglio. Le tariffe di RC auto, parlo, dato che c'è una legge obbligatoria, dovrebbero essere uguali per tutte le compagnie. Le altre garanzie che sono in un contratto, i famosi hard, una compagnia li può fare strapagare o regalare. Vabbè Alessandro, adesso già questa per me è una technicality un po' complessa. Comunque, insomma, applauso per aver fatto tornare l'attenzione sulla vostra professionalità. Noi, io le dico, io ho dato l'eredità ai miei figli e faticano tutti i giorni sono discussioni, sempre le stesse cose. Perché la gente oggi fa veramente fatica più di ieri a venire a pagare tutte le volte l'aumento di 20, 30, 50, 60 euro. Quando va bene poi Alessandro, perché le ripeto, sto raccogliendo qua testimonianze di aumenti ancora più consistenti. Grazie al nostro ascoltatore di Torino. Allora, dottor Verdone, torno da lei naturalmente. Il tema grosso, tra i temi grossi, adesso lasciamo da parte per un attimo il problema della distribuzione e organizzazione delle reti, credo abbiamo già parzialmente esaurito nella prima parte della trasmissione, il tema del contrasto alle frodi, anche questo sollevato con lei in molte altre trasmissioni, anche perché stanno sorgendo, da quello che capisco fino a questo momento c'è quantomeno la volontà di far sorgere iniziative differenti, una a carico dell'ISVAP, che è l'organismo di controllo sul settore assicurativo, ed è questa banca dati sinistri che appunto dovrebbe partire da gennaio. E poi c'è tutta l'idea invece di organizzare anche un'agenzia antifrode che vi vedrebbe direttamente coinvolti, in sostanza a prescindere dal fatto che potrebbero essere due iniziative che potrebbero anche confluire in un unico organismo. Detto questo, in sostanza, per un'efficace politica di contrasto alle frodi, le assicurazioni, in modo tale anche da rasserenare un po' da questo punto di vista gli assicuratori, che cosa possono fare? Ma innanzitutto diciamo una cosa, abbiamo fatto passare un concetto di abbandono che è inesistente, perché le compagnie sono presenti nel meridione come sono presenti in altre zone, quindi credo che diciamo Premuti già non sarà d'accordo, perché lui dice che chi arrivano sono tanti e se se ne chiude qualcuno non è detto che non ci sia la possibilità, c'è concorrenza, ci sono 63 compagnie sul mercato, quindi stiamo parlando proprio di un'altra dimensione diciamo d'offerta. Ma diciamo qui la filiera dei costi è caratterizzata da costi che noi abbiamo chiamato con un eufemismo impropri, in realtà si tratta di una dispersione di risorse, le frodi sono la parte principale, c'è una parte molto importante, perché ce lo ricordiamo sempre qui in questa trasmissione ma ovunque, che la maggior parte dei costi per i sinistri vanno per danni a persona, c'è una parte di danni a persona che non andrebbe risarcito, qui bisogna intervenire con la politica e con la legislazione, smettendo di pagare per coloro che non hanno subito nessun tipo di lesione o lesioni infinitamente minori di quelle che dichiarano. La frode, l'antifrode. Dottor Verdone, l'abbiamo persa per un po'. No, devo recuperare la telefonata perché la sento malissimo, non so che cosa sia successo, peraltro ero convinta che fossimo ad un telefono fisso, invece ho quasi la sensazione che fosse sì, infatti eravamo ad un fisso. Premuti, torno da lei per un attimo, perché Verdone contestava, siccome so che questa è una sua battaglia degli ultimi tempi molto, molto forte, insomma dice diamo anche conto dei numeri giusti quando diciamo che le compagnie abbandonano il territorio, so che invece a lei arrivano molte denunce da parte di molti agenti sul territorio del sud che continuano ad inviarle la documentazione ufficiale della la propria compagnia che gli dice guarda da domani lì si chiude. Assolutamente sì, è notizia proprio di ieri di un'altra agenzia che ha dovuto licenziare 14 dipendenti, e dispiace per i 14 dirigenti, chiaramente la solidarietà anche delle associazioni consumatori, ma dispiace anche perché questo significa che migliaia e migliaia di cittadini sono senza assicurazione. Questa è una ovviamente, ma ce ne sono tantissime di queste situazioni, ma la presenza sul territorio, voglio dire, io posso anche dimostrare che abbiamo 5.000 punti vendita, ma se a 4.900 gli vedo di vendere la RC Auto, oppure gli dico vendete la RC Auto solo a 5.000 euro a pezzo, probabilmente dalla presenza sul territorio non me ne faccio un bel niente, io consumatore, ovviamente. Poi, lei come la vede invece la questione della lotta alla frode, Premuti, esatto, che cosa si dovrebbe fare? Andavo su questo, poi sul resto non soltanto ha ragione da vendere l'ANIA e hanno ragioni da vendere gli agenti, perché non ci dimentichiamo che quando si fa una frode il primo che viene colpito è proprio l'agente, il quale viene messo in difficoltà sia per il suo rapporto SP, sinistri a premi, quindi quanto pagano rispetto a quello che incassano, sia perché è a diretto contatto probabilmente con persone poco affidabili, il che mette anche in pericolo fisicamente a volte le persone che operano sul territorio. Su questo noi dobbiamo concentrarci, noi ci dobbiamo concentrare assolutamente su quello che è la battaglia che va fatta a contrasto delle frodi. L'agenzia antifrode deve essere varata immediatamente e a me dispiace che ci sia una crisi politica in atto in questo paese che probabilmente ci vedrà rinviare ancora una volta. Un problema che Beh, intanto se parte la banca dati dell'ISVAP già qualcosa è. Io devo sentire Angelo da Salerno, mi manca un minuto di tempo prima di chiudere la trasmissione. Angelo, in 20 secondi che cosa le è successo? Dico rapidamente se riesco, io sono un utente, se posso dire, modello delle assicurazioni, capita la denuncia di sinistro ma una volta ogni 10-15 anni. Benissimo. Pochissimo assicurato, mi sono visto togliere disdire il contratto qualche anno fa da una delle compagnie primarie di cui ero cliente affezionato da sempre, perché avevano deciso che il mio territorio era a rischio. Trattandosi di un obbligo e secondo me qualcosa di paragonabile al servizio pubblico, ed essendo le compagnie assicuratrici delle imprese, quindi soggetti a fattori di rischio, dovrebbero poter almeno discriminare tra i clienti. Trovo corretto che si tolga, diciamo, l'assicurazione a qualcuno. Come ha risolto Angelo? È riuscito a fare un altro contratto? Un'altra compagnia primaria che mi ha abbracciato, mi scusi. Meno male. Ma c'è stato un momento di panico perché tanta gente prima della scadenza ritrovarsi con la compagnia di riferimento che all'improvviso le dice certo. Il contratto perché quel territorio è pericoloso. Era rimasto male. Angelo, io devo salutarla perché ho chiuso la trasmissione, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma come vi ho già detto in apertura, se almeno una volta al mese non parliamo di RC Auto non siamo contenti, sarà questo uno dei nostri primi appuntamenti di gennaio, magari ancora rifacendo discutere Giovanni Metti, Vittorio Verdone e Fabrizio Premuti, che ringrazio molto rapidamente. Io vi saluto, ritorniamo lunedì, ci sarà con noi il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.